Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Al Festival dell'Economia di Trento, appena concluso, ho incontrato Hervé Falciani, esperto di analisi di dati, l'uomo che ha rivelato i nomi dei titolari di decine di migliaia di conti segreti presso la banca d'affari internazionale HBSC. 7.000 di questi nomi italiani, e spiegato come le banche operano nei paradisi fiscali per far sparire nel nulla il denaro. Parliamo di una delle più grandi fughe di notizie degli ultimi anni, se consideriamo che ci sono ancora 100.000 nomi da verificare in 200 paesi per raccontare il retroscena di un tesoro che vale oltre 102 miliardi di dollari transitati sui conti svizzeri fra il 2005 e il 2007. Tutto questo tra l'altro è raccontato in un libro scritto a quattro mani con il collega del giornale Angelo Mincuzzi. Con Falciani ho cercato di ragionare sul rapporto tra tecnologia e finanza sporca. Sentite. Della banca, quando pensi che hai numeri di sistemi, numeri di prodotti, per esempio finanzieri che sono giganti, hai milioni di prodotti finanziari che esistono oggi e hai migliaia di sistemi informatici che lavorano, collaborano insieme, che alla fine nessuno può essere sicuro del tutto. Sono alla visione globale. Certo, è stato molto chiaro che alla fine la comunicazione fa che non si può tenere segreta tutta l'informazione, che è il segreto più di tutto, quello più efficiente oggi, è basato sulla complessità del modo come si gestisce questa informazione. Insomma, la finanza sporca si nasconde nella complessità, dice Falciani, che spesso parla di asimmetria informativa, patrimoni spezzettati su decine di conti in vari paesi, movimentazioni multiple per far perdere le tracce, eccetera, eccetera. Tutto questo anche grazie alla potenza dell'informatica, di cui questo genere di finanza si serve al massimo livello. Ma ci chiediamo, è possibile ingaggiare con questo mondo un corpo a corpo a colpi di bit? Usare, insomma, la potenza dell'informatica per stanare evasori e capitali sporchi? Sentiamo. Sono un esperto più di tutto in analisi dei dati. E proprio quello è che oggi la complessità dei sistemi significa che quando vediamo anche il big data, oggi non cerchiamo più a ricreare un modello complesso che va a simulare l'intelligenza. No, prendiamo tanti dati che hanno già un contenuto intelligente che si utilizza, senza sapere sempre, è il big data, lasciare agire quelle informazioni senza sapere neanche alla fine perché quelle hanno dato un risultato utile. Cioè si cercano, se posso dire, delle correlazioni tra i dati, tra questi grandi quantitativi di dati, e a volte queste correlazioni sono del tutto inattese, cioè non si sa neanche perché ci sono a volte. Nel deep learning cerchiamo a far emergere modi di pensare senza sapere come si eseguirono, no? Dunque, se troviamo modi per estrarre le informazioni al modo del deep learning, può essere che domani potremo utilizzare queste informazioni solo con quelle strategie. Un giudice domani che vendrà a utilizzare e raccogliere, è un poco già così, tutte le dati, non potrà utilizzare le dati. E per quello che di tutti i dati, alla fine, solo quelli sui rapporti di visite che erano scritti a mano all'inizio hanno potuto fare capire l'importanza di quello che succedeva in banca. Insomma, il vero problema è che anche quando i dati ci sono, la giurisprudenza non è quasi mai attrezzata per utilizzarli. E questo è uno degli aspetti su cui dobbiamo più lavorare per poter contrastare la finanza illegale, che invece è sempre all'avanguardia. Ho chiesto a Falciani se ci sono segni di interesse da parte di questo mondo per alcuni dei fenomeni più appunto all'avanguardia nel settore monetario, come per esempio la comparsa e la diffusione di valute virtuali e criptovalute, quali il Bitcoin, per fare un esempio, di cui abbiamo anche parlato recentemente. Ecco cosa ha risposto Falciani. Precisamente quelli che si interessano di più oggi a queste monete alternative, virtuale, criptomone, sono gli stessi banchieri, perché è proprio l'evoluzione tecnologica della banca e degli scambi di valore. Aiuterà a fare sparire gli intermediari. Ma questo è un vantaggio per le banche o è un vantaggio certo, per... Certo, è un vantaggio all'inizio per le banche perché spenderanno meno soldi per le stesse operazioni. Ho partecipato a una nota in Francia, no? Per l'amministrazione, su quel tema del Bitcoin, come si potrebbe utilizzare in un modo più giusto, controllare per motivi di tasse già. Certo, certo. E certamente facendo qualche ricerca a quel momento abbiamo visto che la Svizzera e il sistema finanziario globale si interessa molto, investe molto soldi per utilizzare quei meccanismi che sta scoprendo, no? Bene, ci fermiamo qui. Appuntamento con Smart City domani alla stessa ora per la seconda parte dell'intervista a Hervé Falciani. Buona serata.